dopo questo pezzo di dubbio gusto, direi che possiamo passare alla seconda puntata di Ginnastiche per Sale d'Attesa. Ma facciamo partire già la sigla, così bando alle ciance. Qui sempre i Fugazzi, sempre a farci, diciamo, suonare per noi la nostra sigla. Questa era sempre Waiting Room. E niente, praticamente, diciamo, già nella prima puntata abbiamo spiegato come funziona questo nostro programma, e la logica è sempre quella di un approfondimento totalmente irrilevante ai fini, se non a delle conversazioni totalmente improvvisate con degli estranei fastidiosi. E quindi, diciamo, abbiamo anche spiegato un po' che funziona tipo una sorta di Trivial Pursuit virtuale. E quindi la prima volta noi eravamo cascati su una casellina marrone e avevamo preso spunto per parlare di enantiosemie. Molto bello, molto molto bello. E invece a sto giro abbiamo tirato i dadi, perché raga, è successo veramente così, volevo dirvelo, è successo veramente così. Cioè, siccome la mia difficoltà a scegliere cose, argomenti e ambiti è totale, e anche su tre canzoni sono stata veramente in difficoltà, abbiamo fatto come effettivamente si fa a Trivial Pursuit. Quindi abbiamo tirato un dado e il dado ci ha portato sulla casellina gialla. E giallo è storia. E quindi, che tra l'altro è anche il motivo per cui non abbiamo fatto una puntata settimana scorsa. Quindi, come vedi, torna tutto qui con me in studio in questo momento. C'è alla regia silente, ma anche no, perché poi lo tiriamo un po' in mezzo, il buon Lorenzo Piccarasi. Mi tiro in mezzo da solo. Bentornati su Radio ZM. Ricordatevi la chat. Bravi, chiocciola ecco. Radio ZAM trattino basso chat per comunicare in diretta con la radio. Che dire, io torno a essere silente, ma non per molto. Ma non per molto, perché in realtà quest'oggi Lorenzo ci fa un po' da, diciamo, anche da attore-lettore. così, cioè, lo sfruttiamo per tutte le sue potenzialità. Quello che non sfruttiamo, o meglio forse sfruttiamo, è l'assenza di Cigo, che non ci vuole bene per niente. Io ieri l'ho trattato male, lui ha fatto anche quello preso male, e invece ci avevo ragione, ci avevo visto lungo, vedi, sono le mie doti di preveggenza. Cigo, guarda, sei veramente, ci sono rimasta malissimo. No, non è vero, non mi interessa. No, non è vero, non è vero. Ci manca molto Cigo, ci manca anche Cesa, ma oggi va così. Abbiamo anche altri due ospiti che sono lontani dai microfoni, ma sono qua a tenerci compagnia. Perché ricordiamo che a Red ZM c'è anche un divano comodo, molto lontano, per assistere alla diretta. Esattamente, live. Esattamente, abbiamo tutto qua a Milano Sud, quindi abbiamo fondamentalmente, visto che paghiamo Pica per sponsorizzare la chat di Telegram, ripartiamo dalla chat di Telegram. Quindi abbiamo una chat di Telegram, una pagina Facebook, lo streaming su cui ascoltare la radio, evidentemente sul sito di ZAM lo trovate, il button lo trovate in alto a destra. Insomma, dopo aver detto ognuna di queste cose che forse già sapevate, abbiamo anche i podcast ovviamente, tendenzialmente se ci state ascoltando ognuna di queste cose le sapevate già, ma noi ve la ridiciamo, e partiamo a questo punto con quello che è diciamo l'argomento della giornata, nel senso che se l'ambito è quello della storia, l'argomento è quello della guerra d'Algeria. Ora, quest'oggi, visto che siamo alla seconda puntata, facciamo un esperimento ulteriore, e quindi noi facciamo, diciamo, accompagnare la nostra chiacchierata, la nostra narrazione, da diversi spezzoni audio. In particolare molti di questi arrivano da un filmone che invitiamo tutti e tutte a guardare. È un film del 66 diretto da Giro Pontecorvo ed è La battaglia d'Algeri, un filmone che peraltro ha anche vinto il Leone d'Oro alla 27esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. È un film che è stato registrato e diretto ad Algeri, effettivamente, pochissimi anni dopo la fine del conflitto, e racconta la storia vera e propria, effettivamente, con nomi e cognomi. È un film molto bello, quindi vi invitiamo a vedervelo. Detto questo, iniziamo subito perché stiamo già un po' temporeggiando troppo. Allora, proviamo a situarla nel tempo. Guerra d'Algeria. Intanto, l'Algeria è un paese del Maghreb, ci troviamo praticamente sotto la Francia, fra la Tunisia e il Marocco, è uno stato piuttosto grosso. E la guerra d'Algeria è il conflitto che oppone fra il 1 novembre del 54 e il 19 marzo del 62 l'esercito francese e gli indipendentisti algerini. Ci sono parecchi attori, in realtà, perché detto così sembra facile, ma in realtà ci sono parecchi attori, poi man mano, un pezzettino alla volta, lo scopriamo, perché ovviamente ci sono degli eserciti regolari, che sono quello francese, ci sono però anche degli eserciti irregolari, ci sono c'è un fronte di liberazione, ci sono svariate organizzazioni anche segrete, che paramilitari, che interverranno a cercare di spostare l'ago della bilancia nel corso degli eventi, ma noi lo guardiamo un pezzo alla volta. Allora, siccome tutte le storie iniziano da qualche parte, devono iniziare, diciamo, invece che quella di Pontecorvo, che inizia dalla fine, inaugurando peraltro una tradizione cinematografica infinita di film che iniziano col flashback finale, probabilmente, che non si chiama flashback, si chiama flash forward. Bravo, esatto, vedi, no? Volevo vedere, stare attento, Pica. E niente, fondamentalmente che cosa succede? Noi invece decidiamo, siamo dei tradizionalisti, decidiamo di iniziare dall'inizio. Allora, prima cerchiamo di capire qual è la situazione precedente, diciamo, allo scoppio di tutto ciò. Allora, la prima cosa che va detta è che l'Algeria viene conquistata nel 1830 dai francesi, ed è una storia molto particolare, ed è il motivo per cui poi diventerà così strana anche nel corso del Novecento, che pur vede la decolonizzazione di un sacco, evidentemente, di stati che erano stati presi dagli occidentali nel corso del secolo precedente. Il motivo per cui l'Algeria è una situazione particolare principalmente è che si tratta di uno stato, o meglio, di una colonia non tanto di sfruttamento, ma anche e soprattutto di insediamento europeo. Quindi in realtà, come dire, non era una colonia, non era un protettorato, era stata socialmente integrata al territorio francese. E per esempio, ecco, giusto perché prima parlavamo del Marocco e la Tunisia, che sono gli stati confinanti, sia il Marocco che la Tunisia sono diventarono fin da subito protettorati, e effettivamente questo fu anche il motivo per cui la Francia nel 56 poi invece a loro li lascia lì tranquilli, li dice tenetevi la vostra indipendenza, mentre invece per l'Algeria la storia è molto molto molto diversa. L'economia stessa dell'Algeria, quindi la produzione del vino e anzi principalmente del vino, era legata a quella francese, e nello specifico in realtà, e dal film si vede bene, ma in realtà si vede anche da Google Maps, insomma, no, da Google Maps pop, perché ho visto che non c'è lo Street View. Io sono una grande fan dello Street View di Google Maps. Anch'io. Ma invece in Algeria non c'è, ci sono solo i puntini con le foto sferiche. Comunque, se lo vedete, effettivamente, per esempio, le città, in particolare Algeri, aveva un'apparenza, un'architettura tutta stampo europeo, quindi in realtà era molto europea, e c'era una gigantesca come dire comunità di non algerini, principalmente europei, principalmente francesi, ma non solo, comunque diciamo erano proprio un buon numero. In particolare vedo qua, perché mi sono segnata delle cose, che nel 50 c'era più di 1 milione di persone, quasi a un certo punto arrivano a 1.800.000 persone. Ecco, allora, ricordiamoci questa cosa, perché fra le altre cose il punto è che questa comunità europea in realtà era era europea e ebraica. Diciamo, ebraica prima dell'arrivo della Francia c'era, era già abbastanza consistente, quella francese evidentemente meno, arriva nel 1830 con la Francia. E che cosa, come funziona? Funziona fondamentalmente che queste, diciamo, questa comunità era, essendo la Tunisia un paese integrato nel territorio francese, queste persone erano cittadini francesi. Gli stessi algerini potevano diventare francesi volendolo, ma evidentemente non lo volevano perché loro erano già lì. E giustamente, tra l'altro, tendenzialmente le popolazioni non algerine prima degli arrivi dei francesi erano avevano uno status di protetto che non era terribile, ma non era un granché, devo dire la verità. E quindi evidentemente gli algerini, quando sono arrivati i francesi, che gli hanno detto ma guardate, se volete potete diventare francesi, hanno detto ma magari anche meno, anche senza, facciamo senza. La comunità degli algerini, diciamo dei coloni europei algerini, era appunto piuttosto consistente. E quello che succede fondamentalmente, diciamo nella storia successiva, dipenderà anche molto dal fatto che, essendo loro cittadini francesi, evidentemente potevano votare. E vedremo che in realtà la situazione in Francia nel periodo, diciamo, fra la guerra mondiale e il momento in cui scoppia la guerra d'Algeria, era un governo super debole che è cambiato una dozzina di volte nel giro di meno di 10 anni. E quindi evidentemente 1.800.000 voti sono tanti, cioè sono tanti, cambiano fortemente gli equilibri della politica interna. Ora, tutto questo per dire che cosa? Che a un certo punto questi coloni francesi evidentemente diventano un problema per la popolazione algerina, che non vede come, diciamo, i coloni francesi la vedevano come Algeria francese, gli algerini evidentemente no, e quindi il dominio francese nei loro occhi era abbastanza disprezzabile, perché i coloni francesi si erano appropriati di gran parte delle terre coltivate, sfruttavano la manodopera algerina a un basso costo per produzioni che poi andavano in Francia, e soprattutto il 75% della popolazione era classificato come povero, molto povero, cosa che non era altrettanto vera evidentemente per la popolazione, diciamo per i coloni europei, che avevano un nome simpatico, che è pied noir, cioè piedi neri, non tanto perché avessero i piedi sporchi, anche se, no, non è vero, non tanto perché avevano i piedi sporchi, ma perché avevano le scarpe di cuoio nero e invece che i sandali. Loro evidentemente rappresentavano la classe dirigente del paese, quindi erano quelli ricchi, educati, che avevano tutta una serie di strutture super europee, quindi ci sono le sale da ballo, i bar, le gelaterie, i palazzi all'europea, cioè è proprio così. Tra l'altro, fra le altre cose simpatiche che ho scoperto, è che fra i pied noir alcuni sono diventati particolarmente famosi e io sinceramente non sapevo assolutamente che fossero di origine algerina, e in particolare ne cito alcuni. Uno è un filosofo che spacca molto, che si chiama Louis Althusser. Conosco. Conosci, bravo, molto bravo. Ricordavo fosse algerino. Bravo. Uno è Camus. No. Proprio lui, filosofo, Albert scrittore Camus. E drammaturgo, premio Nobel per la letteratura nel 1957, leggete, cioè subito dopo. Subito dopo, no vabbè, subito dopo no, ma poco dopo l'inizio della guerra d'Algeria. Fra le altre persone che altrettanto non sapevo che fossero algerine ci sono Claudia Cardinale e Edwige Fenech. Ma veramente? Te lo giuro, sono entrambi pied noir. E Yves Saint Laurent. No. Proprio lui, raga, proprio lui. Quando vi comprate le borse a 4.000 milioni quando? Di dollari. Voi quando? Direte quando? Quando vi comprate le borse tarocche succede. A 30 euro, che però sembrano quelle della Yves Saint Laurent, ricordatevi che lui era uno dei pieds noirs. Ora, veniamo un po' al dunque, perché a questo punto che cosa succedeva? Prima l'abbiamo detto, diciamo anzi, facciamo così. Finiamo l'ultimo pezzo del pre-guerra e poi andiamo effettivamente a parlare di quello che sta per succedere. Quando finisce la seconda guerra mondiale la Francia è un po' andata in vacca, nel senso che la situazione del dominio coloniale francese super potente è andata un po' a farsi friggere, diciamola così. L'impero coloniale è l'ombra di se stesso, peraltro la situazione economica è male, quindi c'è una crisi economica potentissima e evidentemente questa cosa potenzialmente rappresenta un momento di debolezza per la Francia. Non solo, in realtà, nel senso che l'economia, visto tutto quello che abbiamo detto prima, se l'economia algerina derivava da quella francese, quando quella francese crolla a seguito della Seconda Guerra Mondiale, anche in Algeria registrano un crollo drammatico della situazione economica, e nello specifico creano un proletariato di 10 milioni di musulmani ulteriormente immiseriti dalla disoccupazione. Quindi 8 maggio 45, nel resto del mondo si festeggia ufficialmente la fine della guerra, poi sappiamo che più o meno tutti gli stati hanno finito un po' in giorni diversi, però diciamo che la fine official deadline della Seconda Guerra Mondiale è l'8 maggio del 45. In diversi posti del mondo appunto si festeggia la fine della guerra, e in Algeria una serie di manifestazioni di algerini provano a richiamare, diciamo, le loro richieste nazionaliste, quindi provano a rifarsi avanti stanche di essere dominate dall'oppressione francese. In diverse città ad est del paese, quindi verso la Tunisia, ci sono in particolare queste manifestazioni, e in uno di queste la polizia e l'esercito francese sparano sulla folla e in particolare uccidono un paio di persone. La manifestazione si trasforma in una rivolta e la rabbia dei manifestanti si ribella ai pieds noirs, quindi vengono assassinati 27 europei e 700 algerini, quindi la proporzione è comunque sempre un po' questa e rimarrà un po' sempre questa nel corso di tutta la storia. Potenzialmente questa cosa in realtà è quella che per un sacco di persone racconta un po' l'inizio della guerra d'Algeria, perché diciamo venuti fuori da questa doccia fredda in cui vengono barbaramente uccisi 700 persone, per un sacco di persone, diciamo per un gruppo, no, per un sacco non è vero, per un gruppo di persone diventa evidente che, come dire, l'insurrezione armata è l'unico modo, diventa l'unico modo per cacciare i francesi dall'Algeria. Quindi il 31 ottobre del 1954 una nuova organizzazione rivoluzionaria diciamo pubblica un manifesto politico programmatico che, se io fossi un po' meno torda di come sono, avremmo in audio e sarebbe stato il primo audio che vi facevamo ascoltare, ma ahimè non sono altrettanto sul pezzo e quindi pensateci fortissimo, no? Ma forte. Esatto, è il manifesto programmatico, è il comunicato numero uno dell'FLN, che è il nome di quella che diventerà appunto questa riorganizzazione rivoluzionaria, quindi Front de Libération Nationale, Fronte di Liberazione Nazionale, pubblica un manifesto programmatico in cui dichiara l'intenzione di conquistare la sovranità nazionale e abbattere il sistema coloniale in Algeria. A questo punto, il giorno subito dopo, quindi il primo novembre del 54, l'FLN lancia un'insurrezione dei guerriglieri e fondamentalmente appunto la guerriglia esegue molteplici attacchi organizzati in varie parti dell'Algeria contro principalmente installazioni militari, posti di polizia, magazzini e mezzi di comunicazione. Ora, per fare una breve parentesi, nel frattempo la Francia stava evidentemente affrontando la questione coloniale anche in altri luoghi del globo, in particolare in Indocina, quindi diciamo in quella che poi diventerà poco dopo il Vietnam, e in particolare nel 54 finisce proprio la guerra in Indocina e come dire, finisce abbastanza in maniera serena, nel senso che la Francia, come succederà poi in altri contesti, alla fine lascerà, nonostante prima abbia fatto un po' di degenero, però lascerà fondamentalmente il paese alla sua indipendenza. Era una cosa che stava succedendo più o meno anche, per esempio, alla potenza coloniale, diciamo al di là della Manica, quindi dell'Inghilterra. Quindi in una qualche maniera magari gli algerini potevano sperare, chissà, che fondamentalmente andasse così anche a loro. Quello che invece succede è che il ministro dell'interno francese, cioè Mitterrand, afferma: la ribellione algerina può solo trovare un'unica forma terminale, la guerra. Molto bene. Lo stesso Maine de France, che è invece sarà uno dei miliardi di premier, diciamo, in questo periodo storico della Francia, dichiara che non si può giungere a compromessi quando si tratta di difendere la pace interna della nazione, l'unità e l'integrità della Repubblica. I dipartimenti algerini sono parte della Repubblica francese, sono francesi da lungo tempo e sono irrevocabilmente francesi. Tra loro e la Francia metropolitana non è concepibile alcuna secessione. E insomma, questo è quello che risponde la Francia. Gli algerini prendono atto di questa cosa. A questo punto abbiamo parlato veramente per troppo tempo. Mettiamo una canzoncina. Mettiamo una canzone del 2005. Si chiama BYOB, cioè Bring Your Own Bombs, dei System of a Down. Lies from Allora, questo era Break Your Own Bones, BYOB, dei System of a Down. Adesso noi proseguiamo il nostro racconto. In realtà siamo praticamente l'abbiamo appena iniziato, ma adesso entriamo un po' più nel vivo, nel senso che effettivamente, se ricordiamo la prima cosa che abbiamo detto, il primo novembre è effettivamente l'inizio della guerra in Algeria. Ora, all'insurrezione, diciamo, dei guerriglieri dell'FNN del primo novembre, in realtà viene dato peso fino a un certo punto, nel senso che all'inizio è vero che qualcuno pensava che appunto l'insurrezione armata fosse l'unico modo per cacciare i francesi, ma non erano in tantissimi e comunque erano molto molto poco equipaggiati. Effettivamente l'FLN non possiede che 3.000 membri operativi e soltanto la metà di loro è armata. I francesi evidentemente invece hanno un esercito regolare e anche diversi non regolari, quindi rispondono a questo a questa insolenza algerina in maniera brutale e reprimono la rivolta nel giro di poche settimane. Quello che succede però in Francia, e in questo senso diciamo quelli dell'FLN ci avevano visto giusto, è che, come già era successo anche in Indocina, e quindi come già ben sapeva Ho Chi Minh, in realtà è diciamo coinvolgere in una battaglia militare la Francia, col passare del tempo si spera, o quantomeno quelli dell'FLN sperano, che radicalizzi gli algerini spingendoli a sposare la causa della indipendenza. Quindi a un certo punto l'FLN effettivamente inizia ad organizzarsi molto meglio, inizia ad avere una struttura bella massiccia, bella potente, tra l'altro con buone dosi di clandestinità, quindi abbastanza difficile da sgominare, e nel corso dei primi pochissimi anni, nel 57 per dire, se nel 54 aveva 3.000 membri, nel 57 ne aveva 40.000. In aggiunta a questo, in realtà anche il Marocco e la Tunisia dà a disposizione delle sue unità esterne sul confine algerino, fondamentalmente per creare delle azioni diversive, per allontanare e truppe francesi dai principali teatri dell'attività di guerriglia. Un altro elemento, diciamo un altro evento potente di questa prima fase di guerra è nell'agosto del 55, nel senso che nel 20 agosto del 55 a un certo punto i francesi, scusatemi, gli algerini diciamo insorgono in un paio di città, in particolare a Skikda, che in realtà in francese è Philippeville, cioè un piccolo impianto minerario europeo. Fondamentalmente diciamo c'è una insurrezione, una nuova insurrezione legata all'FLN, e anche in questo caso la repressione francese è violentissima. Tra l'altro, non a caso, in realtà questa cosa succede il 20 di agosto, perché il 20 di agosto è in realtà il secondo anniversario della deposizione del sultano del Marocco da parte dei francesi. Quindi in realtà aveva anche un po' un significato, diciamo, un po' panarabo di vicinanza alle lotte vicine, e che in realtà si concluderanno molto meno sanguinosamente che quella algerina. Detto questo, a questo punto la guerra si fa totale, la Francia decidono misure sempre più violente, viene sciolta l'assemblea algerina e sostituita con una struttura un pochino più autonoma e decentrata in 5 distretti ciascuno, che in teoria doveva avere un'assemblea un po' più elettiva del popolo. Dopodiché in realtà i francesi, cioè i coloni francesi perlomeno, riescono a ritardare questa cosa fino al 58, quindi bloccando ogni via d'uscita da questa impasse. Dopodiché in realtà la situazione inizia ad essere un po' complicata, ed effettivamente il Fronte di Liberazione Nazionale riesce a convincere alcuni stati arabi e comunisti e le Nazioni Unite e alcune personalità di spicco ad esercitare pressioni diplomatiche sul governo francese per negoziare un cessate il fuoco. Tra le altre persone a fare questa operazione c'è appunto quello che abbiamo già citato, un intellettuale di spicco fra i pieds noirs, che è Albert Camus, nato in Algeria, che cerca invano di persuadere entrambe le parti a lasciare perlomeno i civili da parte. Adesso, che cosa diceva Camus? Ce lo dice la nostra regia silente. I francesi, che in Algeria pensano che possiamo far coesistere la presenza francese e la presenza araba in un regime di libera associazione, che credono che questa giustizia renderà giustizia a tutte le comunità algerine, senza eccezione, e che sono sicuri in ogni caso che essa soltanto può salvare, oggi dalla morte e domani dalla miseria, il popolo dell'Algeria, questi francesi devono assumersi le loro responsabilità e predicare la calma per rendere il dialogo nuovamente possibile. Il loro primo dovere è di chiedere con tutte le loro forze che sia instaurata una tregua per quel che riguarda i civili. Beh, brividoni. Insomma, Camus dice queste cose e in realtà per quanto dotato di ottime intenzioni, Camus non riesce ad essere preso, diciamo, nella migliore nelle maniere. In effetti diciamo che gli algerini lo prendono un po' per pazzo, nel senso che questa sua dichiarazione un po' così, un po' naif, viene presa come quella di un ben pensante, ma che rimaneva un po' lì, diciamo. In compenso invece i militanti della destra francese e i coloni europei in generale, che non erano particolarmente, per lo più particolarmente progressisti, e come dire, accoglievano gli algerini al grido di ratti ratti, nello specifico appunto migliaia di militanti della destra francese, quando Camus va a presentare questo tentativo di cessate il fuoco, diciamo, civile, scendono in piazza e scandendo slogan a favore della repressione e contro ogni intesa, al grido di a morte Camus. Insomma, non l'hanno presa benissimo. Niente da fare. In compenso, a rispondere all'appello, diciamo, fra gli altri, c'è effettivamente Nasser, che era il presidente egiziano, che nel frattempo diciamo aveva dato il suo appoggio anche politico ma anche materiale in realtà agli insorti algerini, e nello specifico i francesi pensano che insomma il suo appoggio sia decisivo per il sostentamento delle attività degli insorti. E quindi questo in realtà, per esempio, parlando di una storia, anzi non ne parleremo, magari ne parleremo un'altra volta, però è uno dei motivi per cui la Francia in realtà interverrà immediatamente nella questione della crisi di Suez, quindi tutto ciò che riguarda l'Egitto nel 56. Detto questo, poi fra poco ritorniamo ad ascoltare un po' di musichina. Detto questo, nel frattempo appunto abbiamo visto che i coloni francesi non rimangono a guardare. Nello specifico nasce, diciamo, al di là, e qua incominciano a spuntare tutti i vari attori, al di là dell'esercito francese nasce una organizzazione che viene chiamata, diciamo, viene la cui sigla è ORAF, che è la Organisation de la Résistance de l'Algérie Française, che pronuncia della Madonna, appunto un'organizzazione anti-indipendentista dei Pieds Noirs, che inizia ad organizzare una serie di attentati ai danni di civili algerini. Quindi non ci provano neanche a colpire nessun tipo di come dire di struttura paramilitare, se non militare, perché evidentemente gli algerini non ce l'avevano, ma comunque effettivamente inizia a colpire proprio i civili, quindi inizia a mettere le bombe sotto casa della gente nella casba e a fare saltare auto in giro per la città. Detto questo, in realtà gli algerini riescono a tenere abbastanza botta, quindi raggiungono il controllo di certi settori di varie regioni montagnose intorno a Costantina e al sud di Algeri. E qui la LN, che era diciamo l'organizzazione in quota FLN, istituisce una semplice quanto efficace amministrazione militare capace di raccogliere tasse, cibo e reclutare nuove forze. Quindi in realtà in questo momento ci sono tutta una serie di organizzazioni piccole, grandi e medie di musulmani della regione che iniziano a formare clandestinamente delle organizzazioni sociali, civili e giudiziarie, creando man mano l'assetto di quello che sarà il nuovo Stato. A questo punto noi ci ascoltiamo un altro autore abbastanza notevole. Purtroppo rimaniamo oggi sempre negli Stati Uniti. Volevo mettere una colonna sonora un po' antiimperialista, non necessariamente statunitense, ma devo dire che gli statunitensi sull'antiimperialismo, oltre che sull'imperialismo, ne sanno parecchio. E quindi a questo punto ci sentiamo un pezzo che si chiama Civil War di Mortal Technique, con dei feat potentissimi uno dietro l'altro, in particolare Chuck D e Killer Mike, fra gli altri. È un pezzo del 2011. Immortal Technique, Killer Mike, fuck Terminator, Brother Ali, fuck Rambo, no, yeah. It's like a prison with invisible bars. No matter where you at, it always follow you where you are. And it's hard out there for a pimp to get out of, but it's harder for the hooker that he beat the shit out of. I got niggas underground in the Confederate States, ironically running from slavery that prison creates. So I never hate on the South, I respect their vision. I just hate on niggas that promote Samboism and white execs that love to see us in that position. They reflect the stereotypes of America's vision. They want us dancing, cooning and hollering, only respect us for playing sports and modeling. More than racism, it's stay in your placism. All people are trapped in practical black facism. So fuck a civil war between the North and the South. It's between field niggas and slaves that are stuck in the house. Civil war for the soul of a nation. This is a struggle to save civilization. Demonstrations overthrowing the occupation. The annihilation of mental colonization. Civil war for the soul of a nation. We fight for the future of our civilization. Destroy the corrupt government organizations. Trying to survive cultural ritual assassination. Rip niggas, blood niggas, essays, Asians. Why the fuck we born with each other's population? The devil wanna dead all our population, people in folk nation. Why the separation? Why we got Jamaicans hating on Haitians? When the British and French rape both nations, Mexicans and blacks kill each other straight hating. While the government profits from prison population. If you on the bottom, be you Anglo or Asian, you gotta recognize the realness in what I'm saying. You gotta recognize another G ain't the enemy. When the police ride and kill us frequently, we gotta make the youth see where the truth be. If you achieve, then grow and develop GD. 50 years of gains and our people still poor. If we really run the streets, we should really end war. Civil war for the soul of a nation. This is a struggle to save civilization. Demonstrations overthrowing the occupation. The annihilation of mental colonization. Civil war for the soul of a nation. We fight for the future of our civilization. Destroy the corrupt government organizations. Trying to survive cultural assassination. Listen, our hearts were torn apart just like y'all was. Watching towers full of souls fall to sawdust. Every time we called your office, you ignored us. Now you're holding hearings on us all inside of Congress. Microscopes on us, asking where you're hottest. My answer was in line with all of the founding fathers. I think Patrick said it best, give me liberty or death. I shall never accept anything less. You claim innocence, you play victimless, but you gave the kiss of death in the name of self-defense. Slavery and theft of other nations to the end of pacifying your citizenry with excess. We believe in freedom, justice, security, but they're only pure when they're applied universally. So certainly if I rage against the machine, my aim was only to clean the germs out of the circuitry. Urgently putting fear inside your heart, make you burn Qurans and tell me not to build a mosque. Me, my wife and babies, we ain't never made you hard. We just wanna touch our head to the floor and talk to God. Ask him to remove every blemish from our heart. The greatest threat of harm doesn't come from any bomb. The moment you refuse the human rights for just a few, what happens when that view includes you? Civil war. Insomma, Immortal Technique ci insegna sempre come si fa il rap, proprio passano già in più lingue, tra l'altro riesce a farlo, notevole. Lui invece è statunitense con origini peruviane, se non erro. E insomma, abbiamo visto che in giro per l'Algeria si sta iniziando a sistemare un po' l'FLN con la sua organizzazione clandestina paramilitare che si chiama appunto ALN. A questo punto che cosa succede? Succede che la capitale continua ad essere Algeri, che è un... abbiamo detto appunto, l'avevamo detto prima, è un centro nevralgico dell'amministrazione, è la sede principale degli affari, quindi del commercio, delle entità amministrative, del porto, dell'aeroporto, soprattutto c'è una enorme, appunto, una parte importante dei francesi dell'Algeria alloggia qui, ed è esattamente anche il posto in cui da cui iniziano a diramarsi tutte le comunicazioni, quindi dove stanno i giornalisti, eccetera eccetera. Motivo per cui a un certo punto, giustamente, il Fronte di Liberazione Nazionale dice: non possiamo arrivare a ottenere la liberazione dell'Algeria se non passiamo anche da Algeri. E a partire da questo momento inizia quella che effettivamente poi di fatto è un po' il soggetto, è un po' il l'argomento principale della battaglia d'Algeri, evidentemente, cioè la battaglia d'Algeri, nome, e, per cui la città, diciamo la guerriglia, la guerra si sposta in città e diventa guerriglia perché per l'appunto, intanto a partire da dove? Cioè c'è un grosso quartiere europeo che si chiama proprio quartiere europeo, cioè viene definito così. Ma in realtà questo non toglie che ci sia un grosso quartiere, anzi due grossi quartieri, che sono appunto a maggioranza, a totalità araba direi, che è la famosa Casbah, quella di Rock the Casbah dei Clash, che era troppo facile, quindi non ho messa la canzone. Però diciamo, a questo punto si arriva ad Algeri, qui la guerra appunto diventa guerriglia. e quindi le azioni del fronte di liberazione iniziano a comporsi di imboscate, raid notturni e atti di guerriglia. Il diciamo forse la più famosa, la più nota di queste azioni di guerriglia e forse quella che inizia un po' la battaglia d'Algeri è quella del 30 settembre del 56, quando tre donne arabe, in realtà poi vestite di abiti europei, un paio tinte, comunque vestite in generale alla moda europea, si infilano all'interno della città europea, del quartiere europeo, e fondamentalmente piazzano tre bombe in tre luoghi diversi dalla città frequentati da coloni francesi, cioè due bar e l'ufficio centrale dell'Air France. A partire da questo momento, e in realtà in particolare durante la primavera del 57, la LN dà luogo ad una media di 800 tra sparatorie e bombardamenti al mese, causando numerose vittime civili e provocando una durissima reazione da parte delle autorità. In particolare, il ministro delle colonie francese e residente governatore generale dell'Algeria, che si chiamava Robert Lacoste, proprio come le magliette con il coccodrillino, utilizzando i poteri speciali adottati dall'Assemblea Nazionale nel marzo del 56, proprio diciamo in occasione della guerra d'Algeria, dà ordine a questo generale abbastanza, diciamo, severo sia nei modi che nella attitudine, si chiama generale Massu, di utilizzare ogni mezzo, e l'8 di gennaio del 1957 Massu fa entrare in città i 7000 paracadutisti della sua decima divisione e proclama la legge marziale. Il signor Raymond Lefebvre, ispettore generale dell'amministrazione, ha presieduto una riunione in cui sono state prese importanti decisioni allo scopo di garantire l'ordine pubblico e la protezione delle persone e dei beni. In particolare è stato deciso di richiamare ad Algeri la decima divisione di paracadutisti sino ad ora impiegata nelle operazioni antiguerriglia sull'altipiano Kabilo. Il comandante della decima divisione assumerà ad Algeri la responsabilità del mantenimento dell'ordine e avrà a disposizione a questo scopo tutti i mezzi civili e militari previsti per la difesa della zona. Cognome, Mathieu. Nome, Philippe. Nato a Rennes il 3 maggio 1906. Grado, tenente colonnello. Scuole, Polytechnique e laurea in ingegneria. Campagna, Seconda Guerra Mondiale, Movimento di Resistenza Antinazista, Campagna d'Italia, Guerra d'Indocina, Guerra di Algeria. Risulta che negli ultimi... E questo era effettivamente il primo pezzo che ci stiamo ascoltando dalla battaglia d'Algeri. Ne seguiranno diversi, perché evidentemente siamo arrivati poi nel clou di questo argomento. Dicevamo appunto che quindi fondamentalmente, diciamo, l'esercito francese aveva già sofferto l'umiliazione inflittagli dai Viet Minh durante la guerra d'Indocina, e successivamente era stato obbligato a ritirarsi tristemente a testa bassa anche dall'Egitto. Quindi il governo francese con l'Algeria non vuole fare brutte figure e dà carta bianca a questo Jacques Massu, il quale dispone peraltro di 500.000 di uomini, gran parte militari di leva, quindi non briciole, diciamo, ecco. Quando dicevo che questo generale Massu era un personaggio severo, volevo dire, in realtà, volevo usare un'altra parola che inizia per S e finisce per onzo, per tronzo, volendo, nel senso che in realtà lui arriva e con la carta bianca ci fa veramente quello che vuole. Nello specifico inizia un'opera di controspionaggio e controterrorismo, per cui utilizza la tortura per ottenere informazioni e inizia veramente a demolire pezzo dopo pezzo sia l'FLN che la Casbah, in realtà intera, nel senso che compie una serie di atrocità che, come vediamo, gli verranno un po' gli torneranno un po' indietro in termini di opinione pubblica. Detto questo, in realtà quello che fa fondamentalmente è diciamo fermerà diversi scioperi, distruggerà sistematicamente tutte le infrastrutture dell'FLN, e quello che fra l'altro fa è praticamente agire contro i villaggi sospettati di offrire rifugio ai ribelli, e attaccandoli con truppe mobili, attacchi aerei, e deportando, questo ovviamente sempre nella loro testa perché erano sospettati di offrire rifugio ai ribelli, praticamente deporta forzatamente circa 2 milioni di algerini dalle zone più influenzati dalla guerriglia. Ovviamente li porta in zone sotto il controllo del governo. Ora, rispetto al controterrorismo, sentiamo sempre tratto dal film che cosa, diciamo, lo stesso generale dice di questa sua pratica. Conoscerli significa eliminarli. Ne deriva che l'aspetto propriamente militare di tutto il problema è secondario. L'aspetto che viene in evidenza è quello poliziesco. Lo so che questa parola non ci piace, ma è l'unica che indichi esattamente il tipo di lavoro che dobbiamo affrontare. Dobbiamo compiere le indagini necessarie per percorrere l'intera piramide da un vertice all'altro. La base di questo lavoro è l'informazione. Il metodo è l'interrogatorio. E l'interrogatorio diventa metodo se condotto in modo da ottenere sempre una risposta. Nella situazione attuale, dimostrare una falsa umanità non porta che al ridicolo e all'impotenza. Io sono certo che tutte le parti comprenderanno e reagiranno conseguentemente. Ma purtroppo non dipende solo da noi. Noi abbiamo bisogno di avere la casba a disposizione. Dovremo setacciarla e interrogarla tutta quanta. Ed ecco che ci troviamo di fronte all'intrigo di leggi e di regolamenti che continuano ad essere operanti come se Algeri fosse un luogo di villeggiatura e non di battaglia. Noi abbiamo chiesto carta bianca, ma è difficile poterla ottenere. Bisogna allora trovare l'occasione che legittimi il nostro intervento e lo renda possibile. Bisogna crearla noi stessi, questa occasione. A meno che non siano i nostri avversari a pensarci. Cosa che sembra stiano... Allora, cosa che sembra stia succedendo, il generale Massu sostiene che di essere accerchiato, in realtà sta portando avanti una serie di brutalità e di massacri uno dietro l'altro. In realtà questa cosa, per l'appunto, che lui ne sia fermamente convinto, fa muovere qualcosa a livello di panorama internazionale, e giustamente gli algerini ne sono piuttosto soddisfatti, nel senso che l'FLN a un certo punto lancia un comunicato per appunto raccontare che da parte dell'ONU qualche cosa si sta muovendo. A tutti i militanti. Dopo 2 anni di dura lotta nelle montagne e nelle città, il popolo algerino ha ottenuto una grande vittoria. L'Assemblea dell'ONU ha messo all'ordine del giorno la questione algerina. Il dibattito inizierà lunedì 28 gennaio. A partire da lunedì e per la durata di 8 giorni l'FLN proclama lo sciopero generale. Per la durata di questo periodo è sospesa qualsiasi forma di azione armata o di attentato. Tutti i militanti sono mobilitati per l'organizzazione e la riuscita dello sciopero. Eccoci, allora fondamentalmente quello che succede finalmente è che a un certo punto, diciamo finalmente non tanto per l'ONU, che poi vedremo che cosa... diciamo che cosa ci riporterà in seguito, quale sarà la sua risoluzione, ma sicuramente questa cosa, per insieme con la mobilitazione dell'opinione pubblica per gli algerini, diventa una questione grossa, nel senso che è un riconoscimento notevole di quello che sta succedendo effettivamente in Algeria. E in particolare uno dei momenti, diciamo, di maggiore salto, ecco, dal punto di vista politico, e a breve vi faccio ascoltare uno dei pezzi che probabilmente è più potente, uno dei due pezzi più potenti tratti da questo film. Cioè, a un certo punto, proprio in occasione della risoluzione ONU, per il 28 gennaio del 57 viene chiamato uno sciopero generale. Quindi appunto dibattito sull'Algeria alle Nazioni Unite. Nel frattempo, il 28 gennaio, sciopero generale degli algerini. Cosa vuol dire sciopero generale degli algerini? Perché sciopero giustamente uno lo fa quando lavora. In realtà non è solo questa, diciamo, è effettivamente uno sciopero generale, quindi viene chiamata una solidarietà popolare di massa, e quello che viene chiesto è non solo di non aprire i propri esercizi commerciali, di non andare a lavorare, ma di non uscire proprio direttamente dalla zona araba e quindi di non entrare mai nella città europea. Come risponde l'esercito francese? Anche questa è una scena meravigliosa del film. Fondamentalmente l'esercito francese reagisce obbligando i venditori ad aprire i loro negozi, tirandoli fuori da casa, portandoli davanti ai loro negozi e distruggendogli le vetrine per farli aprire. Questo in generale è effettivamente un nuovo step rispetto alla lotta, che diventa effettivamente una lotta di popolo. Quello che ascoltiamo subito dopo, e questo è un pochino più lungo ma secondo me ne vale la pena, è il dialogo fra Ali Ben Midi, che è un importante ideologo dell'FLN, e Ali Lapointe, che invece è uno dei membri più attivi dell'organizzazione, che insomma fa un po' di delirio in giro per le strade. Che cosa ne pensi di questo sciopero, Ali? Penso che riuscirà. Sì, lo credo anch'io. È stato organizzato bene. Ma che cosa faranno i francesi? È chiaro. Faranno tutto il possibile per non farlo riuscire. No. Faranno di più. Gli abbiamo dato l'occasione di fare molto di più. Capisci che cosa voglio dire? Da domani non andranno più a tentoni. Ogni operaio, ogni bottegaio che sciopera sarà un nemico riconoscibile, un reo confesso, e loro potranno passare all'offensiva. A questo avevi pensato? No. Ma Kader mi ha detto che tu non eri favorevole allo sciopero. No, e neanche i miei uomini lo erano. E perché? Perché ci hanno detto che non dobbiamo usare le armi proprio adesso che era il momento buono. Già, solo che le guerre non si vincono con gli attentati. Né le guerre né le rivoluzioni. Il terrorismo serve per cominciare. Ma dopo, tutto il popolo deve muoversi. Ecco la ragione dello sciopero, la sua necessità. Mobilitare tutti gli algerini, contarli e misurarne la forza. Certo, per mostrarla all'ONU, no? Sì, sì, il discorso vale anche per l'ONU. Non so se questo servirà molto, ma così facendo diamo anche all'ONU la possibilità di valutare quanto siamo forti. Sai, Ali, cominciare una rivoluzione è difficile. Anche più difficile continuarla. È difficilissimo vincerla. Ma è solo dopo, quando avremo vinto, che cominceranno le vere difficoltà. Insomma, c'è ancora tanto da fare. Non sarai già stanco, vero Ali? No. Non sarà già stanco Ali, ed effettivamente non lo è, nel senso che passerà poi il resto del film a fare delirio, e anche della storia evidentemente, visto che è una storia assolutamente vera. E insomma, quello che succede è che per l'appunto lo sciopero diventa una lotta di popolo. Quindi effettivamente quello che dice Ali Ben Midi è che a un certo punto questa cosa diventa, diciamo, non sono più le facce dei militanti, dei guerriglieri, dell'FLN, la faccia degli insorgenti algerini diventa la faccia di tutti. Quindi tutti quelli che non stanno andando a fare la spesa, tutti quelli che non escono dalla città araba, tutti quelli che fondamentalmente non apriranno poi o apriranno solo sotto violenza le porte dei loro negozi. Quindi ognuno di questi diventerà una faccia dell'Algeria che non vuole i coloni francesi. Questa cosa, diciamo, questa cosa e questa serie di brutalità portate avanti dall'amministrazione militare di Massu, in realtà effettivamente decima abbastanza il Fronte Nazionale della Liberazione, cioè di Liberazione Nazionale, ma ha anche tutta una serie di ripercussioni politiche, per cui diversi alti ufficiali si rifiutano di eseguire questi metodi, alcuni si dimettono. Effettivamente, per l'appunto, a un certo punto non solo ha un vasta eco internazionale, ma pone diciamo, mette in dubbio la stessa presenza francese in Algeria. Quindi la repressione della ribellione di una parte della popolazione algerina viene presentata come non più come una controinsorgenza, ma effettivamente come una guerra coloniale. A questo punto vorrei farvi sentire un altro pezzettino che fondamentalmente il pezzettino non è bravo, proprio quello esattamente, che è un po' la testimonianza di quanto effettivamente a un certo punto della diciamo di questa guerra, come succede in tutte le guerre, la parte di informazione, e non a caso infatti gli algerini si erano spostati ad Algeri, cioè l'informazione diventa un perno fondamentale nella gestione bellica, perché effettivamente può dare spostare completamente l'ago della bilancia in una direzione o in un'altra. È sempre a parlare il generale, e questa volta ci dice, si rivolge ai giornalisti. Insurrezione armata, ma che cosa sarebbe con precisione? Sarebbe un'insurrezione armata. È un momento inevitabile della guerra rivoluzionaria. Dal terrorismo si passa all'insurrezione, come in campo aperto dalla guerriglia si passa alla guerra vera, che è poi quella determinante. Dien Bien Phu? Esattamente. Soltanto che in Indocina hanno vinto loro. E qui? Dipende da voi. Da noi? Non vorrà per caso farci arruolare, colonnello? No, di guerrieri ce n'è abbastanza. Voi dovete soltanto scrivere, e bene se è possibile. Che cosa manca allora? Una volontà politica, che a volte c'è e a volte no. A volte non è sufficiente. Che si diceva ieri a Parigi? Niente, è uscito un altro articolo di Sartre. Mi spiegate perché i Sartre nascono tutti dall'altra parte? Allora le piace Sartre, colonnello? No, ma mi piace ancora meno come avversario. Mi piace ancora meno come avversario perché Sartre nel frattempo in Francia, dopo aver litigato anche con Camus tra l'altro, perché è troppo leggero sulla questione algerina, aveva fatto pubblicare una serie di articoli, e in particolare aveva pubblicato Vous êtes formidable del 1957, che adesso vi verrà letta da una voce super deep. Sapete cosa si dice a volte per giustificare i carnefici? Bisogna pur decidersi a tormentare un uomo, se le sue confessioni permettono di risparmiare centinaia di vite. Che ipocrisia. Alleg non era un terrorista, così come non lo era Oden. Prova ne è che è stato accusato di attentato alla sicurezza dello Stato e di ricostruzione di associazione dissolta. Volevano salvare delle vite umane. Quando gli hanno bruciato i seni e i peli del sesso? No. Volevano estorcergli a forza l'indirizzo del compagno che lo aveva ospitato. Se avesse parlato, sarebbe riusciti a mettere sotto chiave un comunista in più. Tutto qui. E poi gli arresti si fanno a casaccio. Qualsiasi musulmano può essere interrogato a loro discrezione. La maggior parte dei torturati non dice nulla, perché non ha nulla da dire. Attacca con toni martellanti il dominio coloniale che si oppone agli ideali ai quali dichiara di ispirarsi la Francia. Quante chiacchiere, libertà, eguaglianza, fraternità, amore, onore, patria e che altro? Tutto ciò non ci impediva di fare nel contempo discorsi razzisti, sporco negro, sporco ebreo, sporco topo. È la nostra vergogna, si fa beffe delle nostre leggi e le riduce a una caricatura, ci infetta col suo razzismo. Obbliga i nostri giovani a morire, loro malgrado, per i principi nazisti che combattevamo 10 anni fa. Tenta di difendersi, suscitando un fascismo perfino a casa nostra, in Francia. Il nostro ruolo è aiutarlo a morire. Non soltanto in Algeria, ma dovunque esista. L'unica cosa che potremmo e dovremmo tentare, ma oggi come oggi è l'essenziale, è lottare al suo fianco per liberare dalla tirannia coloniale al tempo stesso gli algerini e i francesi. Falsa ingenuità, fuga, malafede, solitudine, mutismo, complicità rifiutata e insieme accettata, è questo quello che abbiamo chiamato nel 1945 la responsabilità collettiva. All'epoca non era necessario che la popolazione tedesca sostenesse di aver ignorato l'esistenza dei campi. Ma andiamo, dicevamo. Sapevamo tutto. Avevamo ragione. Loro sapevano tutto. E soltanto oggi siamo in grado di comprenderlo. Perché noi sappiamo tutto. Oseremmo ancora condannarli? Oseremmo ancora assolverci? La tocca pianissimo Sartre, la tocca veramente piano, giustamente individua dei germi del fascismo, tra l'altro che la questione era particolarmente spinosa, nel senso che ovviamente diverse di queste personalità anche militari avevano partecipato alla liberazione, solo successivamente alla liberazione dal fascismo, ed effettivamente un tot di loro si facevano abbastanza vanto di questa cosa, quindi come se valesse a dire, no? Cioè, io con questo esercito ho combattuto contro i tedeschi, quindi è impossibile che io sia fascista o sottometta una popolazione, no? Io sono dalla parte dei giusti. Ed effettivamente questa cosa si ritrova più volte. In realtà giustamente Sartre fa notare che di differenza ce n'è molta poca, e in realtà utilizzare ancora le parole del film, i più attenti si ricorderanno che parte della grinta del popolo algerino era arrivata anche dal riconoscimento della questione algerina da parte delle Nazioni Unite, che poco dopo prenderanno parola in questa maniera. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dopo che nessuna delle mozioni presentate nel corso del dibattito ha ottenuto la maggioranza necessaria, si è alfine accordata su una risoluzione che esclude qualsiasi intervento diretto dell'ONU nella questione algerina. L'Assemblea delle Nazioni Unite si limita a esprimere la speranza che in uno spirito di cooperazione venga trovata una soluzione pacifica, democratica, giusta, conforme ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Insomma, l'ONU si rivela totalmente inutile, come poi succederà in centinaia di altre occasioni nel corso della storia successiva e anche precedente, in realtà. Quindi in realtà è un nulla di fatto da parte dell'ONU. A questo punto che ci siamo guadagnati un altro pezzo, che è un altro pezzone antiimperialista di un'altra di un altro gruppo storico degli Stati Uniti. Parliamo dei Rage Against the Machine, ma subito prima di farlo ascoltiamo anche un piccolo altro brano che non potevamo non mettere, perché è veramente potentissimo, dal film, che forse è l'ultimo o il penultimo che ci ascoltiamo. Sicuramente quello che succede è che a partire da subito dopo questo intervallo musicale, il panorama si sposterà dal Maghreb alla Francia, perché si ritorna poi ad una dimensione molto più, a una dinamica molto più back and forward fra Francia e Algeria. Fotografi, basta ora, via. Signor Benmidi, non trova che sia un po' vile usare i cestini e le borse delle vostre donne per trasportare gli ordigni esplosivi che uccidono tanti innocenti? E a lei? Non sembra più vile lanciare sui villaggi indifesi le bombe al napalm, che di vittime innocenti ne fanno mille volte di più? Certo, se avessimo degli aeroplani per noi sarebbe più comodo. Mi dia i suoi bombardieri e noi le lasciamo i nostri cestini. Mr. Benmidi, is it your opinion that the FLN has still any chance to win the battle against the French army? Il signor Williams le ha domandato se secondo lei l'FLN ha ancora la possibilità di battere l'armata francese. Secondo me l'FLN ha più probabilità di battere l'armata francese di quanto questa non ne abbia di fermare la storia. People come up. Yeah. We gotta turn the bass up on this one. Check it. Since 1516, minds attacked and overseen. That tournament's the ruins of this empty dream. With their borders and boots on top of us, pulling out on the floor of the toxic metropolis. But how you gonna get what you need to get? The gut eaters look rich, get offensive like that. The fifth sunset, get back, the plan. your back, your spine crack, but your back. Oh, I'm the Marlboro Man. A back laughing on through the verses. We need to take the cash. Roll a Broadway and curses. Truth tripping suits. Shot to let me. Taking blood of the dead. Rock system like this. From the era of terror. Take this photo lens. Not a city of angels. That's yet the cleanse. And bother to the funk as the speaker. On the one. Fire. Mexica. The motion came to try to do your knee. But now you found a gun. Your history. This is for the people of the sun. Questa era People of the Sun, un pezzone del 96, e dicevamo adesso cambia fondamentalmente tutto il palcoscenico della guerra, perché finalmente, fino adesso noi abbiamo visto tutta una serie di scontri, guerriglia, atti di terrorismo, repressione varia nelle due direzioni, ma sempre in Algeria. A questo punto in realtà cambiamo totalmente spazio, perché ripassiamo verso la Francia, e questo è uno dei tanti motivi in realtà, oltre alla indipendenza algerina, per cui questa guerra poi ha significato così tanto, nel senso che nel frattempo in Francia cade l'ennesimo governo. Avevamo detto nei primi 10 anni dopo la guerra se ne succedono veramente uno dietro l'altro. Fondamentalmente a formare un nuovo governo viene chiamato un politico cristiano democratico di nome Pierre Flimlin, che ha che è noto sul panorama, sul dibattito politico, perché ha delle posizioni a favore di un dialogo con gli algerini. A questo punto lui dovrebbe insediarsi all'Eliseo con il suo nuovo governo nel 13 maggio del 58, quindi oramai la guerra è iniziata da 4 anni. E a un certo punto, mentre lui dovrebbe insediarsi, i coloni europei in Algeria organizzano uno sciopero nazionale e una manifestazione contro l'adozione di qualsiasi politica di compromesso. Si radunano ad Algeri, in un presidio che diventa un corteo non autorizzato, ma intanto anche fosse stato autorizzato, vedremo che in realtà cambia poco, nel senso che appunto si radunano ad Algeri e vanno in corteo verso la sede del governo, nel senso che in Algeria c'era appunto una compagine del governo francese. Quando loro arrivano davanti al governo, la polizia e l'esercito, che in teoria sono lì a presidiare le istituzioni della loro madre patria francese, si fanno da parte e praticamente i coloni iniziano ad attaccare, a prendere a sassate l'edificio. Che cosa sta succedendo? Non è uno scoppio spontaneo di violenza, ma un'azione coordinata, ed è fondamentalmente un colpo di Stato. Quello che succede è che queste varie personalità che arrivano da un po' sono degli ufficiali dell'esercito, un po' sono figure politiche che arrivano dalla tradizione gollista, si rivolgono al generale Massu, quindi quello di tutti questi bordelli, di queste torture, di questo controspionaggio, e gli chiedono di guidare un comitato di salute pubblica, che tra l'altro è un nome che arriva dal 1794-5, quando c'era stata la rivoluzione francese, e fondamentalmente chiedono il ritorno sulla scena politica di De Gaulle per formare un governo di unione nazionale dotato di poteri straordinari per prevenire, e cito testualmente, l'abbandono dell'Algeria. De Gaulle fa la faccia come il sedere e dice che ovviamente nel caso è pronto. Quello che fanno tra l'altro gli insorti, proprio per fare vedere che non stanno scherzando, è di dire che loro hanno già pronta una operazione militare che si chiama Operazione Risurrezione, che fondamentalmente ha come obiettivo quello di prendere Parigi e rimuovere fisicamente il governo francese nel caso in cui non si faccia come dicono loro, quindi che non arrivi effettivamente De Gaulle al potere e che il generale Massu non prenda invece diciamo un ruolo di leadership all'interno dell'Algeria. Per fare vedere che effettivamente è vero e non è una baiata, cosa fanno? Il 24 maggio paracadutano delle truppe e quindi lanciano un attacco dal cielo sulla Corsica per fare vedere: guardate che nel caso noi ce li abbiamo già pronti, ci spostiamo di altri 100 km e vi veniamo a pigliare. Il presidente della Repubblica Francese, che allora era René Cory, convoca il 29 di maggio De Gaulle e a questo punto gli chiede effettivamente di formare un nuovo governo, che viene presentato ufficialmente il 1° di giugno. Perché è importante questa cosa? Perché De Gaulle nel giro di 3 mesi scarsi, anche piuttosto scarsi, fondamentalmente arriva al potere, prende il governo e cambia completamente la Costituzione, per cui dalla Quarta Repubblica, un po' debole, un po' di cambi di governi, si passa ad una Quinta Repubblica che vede praticamente la figura del che poi ovviamente assumerà De Gaulle, insomma, sa va san dire, come figura che a quel punto ha diciamo figura molto più forte, quindi un semipresidenzialismo molto più imponente, e a questo punto De Gaulle, come dire, diventa una personalità di un certo spicco. Ovviamente non l'ho detto, ma insomma si può intuire che vada così molto spesso nelle questioni storiche della operazione Resurrezione, dell'attacco sulla Corsica, della richiesta degli insorti. De Gaulle era stato già ampiamente diciamo informato a tempo debito, quindi sapeva perfettamente a che gioco si stava giocando ed era totalmente pronto a posizionarsi nella giusta posizione, come dire. Quello che succede però è che la nuova carta costituzionale, oltre a vedere tutta una serie di cambiamenti sulla sua figura, prevede anche una cosa non irrilevante dal punto di vista della questione algerina, cioè dice che l'Algeria non è più una parte integrante della Francia, ma un territorio associato a quello francese. Questa cosa non va bene agli insorti, perché giustamente dicono: ma scusami, noi ti abbiamo preso qua per fare diventare tutto pulito, tutto zona nostra, e tu gli dici che è una parte integrata al diciamo associata alla Francia. D'altra parte gli algerini dicevano: non vorremmo che con questa situazione, diciamo un po' di compromesso, tutte le persone che si erano come dire radicalizzate nel corso di questi ultimi 4 anni, che giustamente tra l'altro se la stanno passando un po' male, perché sono da 4 anni, già prima non stavano benissimo, adesso sono 4 anni che sono in guerra, non vorremmo mai che come dire si perdesse il consenso della popolazione. Quello che succede, tra le altre cose, è che l'FLN prende una sua compagine diciamo piccola ma significativa e instaura un governo provvisorio della Repubblica Algerina, una sorta di governo in esilio, che tra l'altro era esattamente buona parte del motivo per cui c'erano così tanti coloni francesi in Algeria, perché il governo in esilio mentre c'erano i fascisti in Francia era parzialmente in Algeria, cioè anzi era per buona parte in Algeria. Quindi fondamentalmente gli algerini fanno la stessa cosa, si spostano in una piccola parte in Tunisia e diventeranno uno dei soggetti di dibattito e di discussione rispetto alle questioni successive. Effettivamente a questo punto De Gaulle è tranquillo sulla sua posizione interna, ha tentato di gestire la sua politica estera, deve però a questo punto non dispiacere all'ONU, a cui sta chiedendo tra l'altro tutta una serie di diciamo sta cercando di riguadagnarsi tutta una serie di simpatie perse nel corso del tempo, perché fondamentalmente lui era abbastanza anti-europeista nella prima fase, e quindi rivede drasticamente la propria posizione esprimendo il concetto di autodeterminazione dei popoli. Pensa te che compagna della Madonna, mamma mia, vabbè. Cosa succede? che i coloni a questo punto dicono: vabbè, però tu stai veramente esagerando, cioè tu ci hai detto che, cioè, noi ti abbiamo fatto tutto sto delirio per farti salire al potere, tu ti sei messo a posto, va bene, hai scritto questa cosa sulla Costituzione, facciamo anche finta che vada pure bene, arrivi alle Nazioni Unite che ci avevi detto che non ti piacevano e parli di autodeterminazione dei popoli. Evidentemente non può funzionare così, per cui i coloni, supportati da unità dell'esercito, organizzano nel gennaio del 60, quindi poco dopo, sei mesi dopo, una nuova insurrezione ad Algeri che ottiene in Europa il sostegno delle masse. Quando la polizia e l'esercito di Parigi, francese, si avvicinano, i coloni manifestanti erigono barricate per le zone ed espugnano edifici del governo. Quello che fa De Gaulle a questo punto è fare appello all'esercito di rimanere leale e chiama i francesi a sostegno della sua politica algerina in un appello televisivo. In realtà gran parte dell'esercito dà ascolto al presidente e ad Algeri il generale Charles soffoca velocemente l'insurrezione. Oggi la situazione si è fatta più tesa. Malgrado le pressioni dei gruppi colonialisti più intransigenti, pare che il governo avesse dato ordini severissimi di non usare le armi se non in situazioni estreme. Ma fin da questo pomeriggio si sono avuti i primi tentativi di sfondamento verso la città europea e quindi i primi morti. Ora è tornata la calma, anche se dalla caspa continuano a giungere quelle grida incomprensibili, ritmate da incubo. Ritmate da incubo, nel frattempo i disordini vanno avanti, evidentemente gli insorti francesi comunque si tengono sempre, diciamo, bilanciati rispetto ai disordini algerini, che evidentemente non possono che seguire lo scoppio, diciamo, di violenza da parte dei coloni europei, finché a un certo punto nel gennaio del 61, e qua ci stiamo veramente avvicinando alla fine, un referendum organizzato nella capitale algerina dà come esito una maggioranza a favore di questa famosa autodeterminazione dell'Algeria, per cui effettivamente il governo francese inizia a negoziare con chi? Con il governo in esilio in Tunisia, emandato dall'FLN. Evidentemente quando effettivamente viene fatto reso pubblico questo incontro, una grossa parte delle sfere militari dell'Algeria si sente tradita da De Gaulle e dopo, giustamente da parte loro, dopo 7 anni di dura lotta contro gli insurrezionalisti che fondamentalmente piagato sia una comunità che l'altra, sia in termini di militanti che di militari che di civili, si sentono totalmente traditi da De Gaulle. A questo punto organizzano un nuovo colpo di stato, un nuovo putsch. Questa volta prende addirittura delle dimensioni più massicce, quindi non solo, diciamo, di minaccia, ma effettivamente di proporzioni un po' più massicce. Nella notte tra il 21 e il 22 aprile del 61 i generali prendono possesso con le loro truppe dell'aeroporto, del municipio e del governorato generale, quindi effettivamente nel giro di poche ore tutti i punti chiave della città arrivano nelle mani dei golpisti. Il colpo di stato viene comunicato in Francia, evidentemente, e il giorno seguente il presidente De Gaulle, a questo punto noi diciamo, visto che ha fatto tutto sto bordello, poi gli è andato contro, poi ha cercato di recuperare, che cosa gli dirà questa volta? Cioè, come cercherà di venire a patti con questa cosa? A questo punto noi, mi sembrava intelligente, diciamo, come ultimo audio, di farci sentire direttamente De Gaulle mentre comunica in televisione che un potere insurrezionale si è installato in Algeria in seguito ad un pronunciamento militare, vieto ad ogni francese, soprattutto ad ogni soldato, di eseguire alcuno dei loro ordini. Quindi De Gaulle si presenta così, evidentemente l'audio è in francese perché sapete com'è, il presidente della Francia di solito si rivolge in francese, ma noi dopo vi diciamo anche che cosa sta dicendo. Le calme d'Alger était trompeur. Soudainement Alger a basculé dans un drame qui agite aujourd'hui la France et au-delà des frontières, le monde attaché à la solution du problème algérien mis en route par le général de Gaulle. Les Français ont soudain découvert le gouffre où risquait de s'enliser le pays lorsqu'à l'Élysée, à la sortie d'un conseil des ministres convoqué d'urgence, la nouvelle fut annoncée et que le ministre de l'Information, M. Louis Ternoir, déclara aux journalistes: il a été décidé de déférer à la justice militaire les généraux Challes, Salan, Jouot et Zeller, ainsi que le colonel Godard. À ce moment, le général Salan, en Espagne, combinait son départ pour Alger. Le pouvoir était tombé aux mains de quatre généraux qui s'étaient saisis d'Alger, puis d'Oran, enfin de Constantine. Le délégué général, M. Jean Morin, était prisonnier des rebelles, ainsi que le général Gambiez, commandant en chef. M. Louis Jox, ministre de l'Algérie, après une mission de 24 heures, revenait à l'Élysée faire son rapport. Et les Français, au soir du 23 avril, entendaient à la radio la voix du général de Gaulle. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. Françaises, Français, voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Françaises, Français, aidez-moi! Pour compléter leur chance, les rebelles tenteraient-ils un raid? Eccolo qua. De Gaulle stava dicendo in questo lunghissimo stralcio, stava dicendo: nel nome della Francia ordino che tutti i mezzi, dico tutti i mezzi, siano usati per bloccare la strada verso questi uomini, ovunque, in attesa di ridurli. Proibisco ai francesi e prima di tutto ai soldati di eseguire i loro ordini. L'argomento, secondo cui potrebbe essere necessario localmente accettare il loro comando con il pretesto di obblighi operativi amministrativo, non può ingannare nessuno. Gli unici leader civili e soldati che hanno diritto di assumersi le responsabilità sono quelli che sono stati regolarmente nominati da questo e ai quali, appunto, gli insorti impediscono di farlo. Il futuro degli usurpatori deve essere solo quello che il rigore delle leggi intende per loro. Insomma, li sta pisciando proprio male ed effettivamente il 26, quindi pochissimi, diciamo pochissime ore dopo, 4 giorni dopo, si ritirano a 30 km da Algeri e si arresero. 220 ufficiali furono estromessi dal comando e 114 vengono arrestati. Molti in realtà aderiscono, e in questo oramai la storia sta finendo, però compare l'ultimo, forse veramente il più disprezzabile, ce ne sono parecchi già, però il più disprezzabile probabilmente degli attori in campo è l'OAS, cioè che è l'Organizzazione Armée Secrète, che è un'organizzazione paramilitare nata appunto in realtà in questa occasione, fondamentalmente che riuniva una serie di fascisti, una serie di sbirri e una serie di militari, la crème della crème proprio. E effettivamente che cosa succede? Succede che, e così finisce fondamentalmente questa nostra storia, succede che De Gaulle volta le spalle a colonie ed esercito e a partire da questo momento poi tiene un profilo basso. In realtà De Gaulle diventa famoso in più momenti della storia per tenere un profilo basso e poi riuscire a beccare tutto il piatto alla fine, diciamo. A quel punto iniziano dei negoziati ufficialmente con il Fronte di Liberazione Nazionale nella città francese di Evian-les-Bains nel maggio del 61, e dopo un po' di false partenze finalmente il governo francese decreta un cessate il fuoco che ha effetto a partire dal 19 marzo del 62. Fondamentalmente, nella loro forma definitiva, e questo è abbastanza importante, gli accordi di Evian garantirono ai coloni uguale protezione legale rispetto agli altri algerini per un periodo di 3 anni. Quindi durante questi 3 anni loro avevano dei diritti che includevano il rispetto della proprietà, la partecipazione alla vita pubblica, e i diritti politici, civili che avevano avuto fino a quel momento. Però alla fine di tale periodo, quindi alla fine dei 3 anni, tutti i residenti sarebbero dovuti o diventare cittadini algerini o essere classificati come stranieri. A quel punto, diciamo, la dura vita dell'immigrato sarebbe stata il loro futuro. Effettivamente diversi di loro rimarranno lì, parecchi, in realtà dei pieds noirs si ritrasferiranno in territorio europeo, effettivamente, quindi dall'altra parte del Mediterraneo. Come spesso succederà appunto nella politica francese, in realtà questi accordi vengono messi a oggetto di un referendum, e il referendum nel giugno del 62 approva gli accordi di Evian con una maggioranza del 91%, quindi in realtà evidentemente la popolazione è totalmente favorevole alla fine di queste ostilità, al cessate il fuoco, non soltanto in realtà ma anche all'indipendenza dell'Algeria, ed effettivamente l'indipendenza dell'Algeria arriverà nel primo il 3 luglio del 62. Durante i primi, e questo giusto perché è giusto che ricordare gli stronzi per quello che fanno, durante i 3 mesi che trascorsero tra il cessate il fuoco e il referendum sul futuro dell'Algeria, l'organizzazione Armée Secrète per l'appunto inizia a compiere una serie indiscriminata di atti terroristici senza precedenti, cercando di provocare una rottura della tregua ottenuta con l'FLN, ma non beccherà e quindi, nonostante i suoi oltre 1000 attentati nel giro di 3 mesi, con 15 morti e 144 feriti, l'OAS può aiutami a dirlo in francese non lo diciamo che cosa può fare dei suoi atti terroristici. Diciamo che finalmente la lunga prendre esatto, e infilarseli dove più gli pare. E insomma, questa in realtà è un po' la storia della guerra in Algeria. Si conclude così, tutto sommato, con un lieto fine, nonostante gli 8 anni di delirio precedenti. A questo punto, come ultima traccia, forse, se Lorenzo vuole farci l'ultimo episodio di lettura in deep voice, ci possiamo infilare anche una poesia successiva, ma diciamo subito prima, a questo punto io infilerei, forse, se la mia regia silente vuole, quello che è esattamente proprio lei, che è la diciamo a questo punto un omaggio sia al film che abbiamo sfruttato orribilmente, sia al compositore della sua deliziosa colonna sonora che è venuto a mancare da pochissimo, Ennio Morricone. Questa è la battaglia di Algeri ed è appunto in un concerto, diciamo, registrata durante un concerto a Venezia, quindi godetevela e poi torniamo. We'll be right back. figlio della Kashba. Kashba degli scaricatori di porto, dei padri di famiglia, dei disoccupati, dei fratelli e delle sorelle che versano lacrime amare, degli uomini probi e degli imam. Kashba delle prostitute, dei papponi e dei ruffiani, Kashba bianca dei turisti, ammalati di romanticismo. Non scordare che sono uno dei tuoi e oggi lontano da te. Rivedo la mia faccia sporca, i miei vestiti stracciati, i miei piedi nudi, i miei amici che si chiamavano Shusha, Lustrascarpe e Teppa. La mia giovinezza e la scuola dove andavo, solo all'inizio dell'anno. Kashba degli scomparsi, degli uomini arrestati all'alba, dei fratelli ricercati per atti di eroismo e abbattuti. Kashba dei parà, delle corde, degli autocarri e dei 120 vit, dei ragazzi torturati, degli uomini fucilati all'angolo della via. Kashba dei politicanti e dei politici, degli sbirri e dei tirapiedi, dei guardaspalle. Kashba bianchi e dei balordi e dei quacquaraquà. Kashba di Serkaji, di Ali Lapuant, di Didush, degli eroi senza nome. Kashba di Bab el Djedid, di Bab Helu e di Bab Ozun. E non scordare che sono uno dei tuoi e oggi, lontano da te, rivedo i miei 20 anni, le terrazze piene di sole, le riunioni clandestine, i ragazzi che scherzano vicino ai fratelli che muoiono, i fogli che passano di mano in mano, la primavera che scorge la certezza, i capelli e gli occhi neri delle nostre donne che hanno smarrito il sorriso, i volantini, le lacrime che sfidano il sole. Rivedo i fratelli che manifestano e che impugnano i cartelli. Serkaji, con i suoi cortili e le sue celle, i suoi corridoi e le sue guardie, la conta, le sue scale interminabili. Serkaji, 1956, con i miei fratelli, il mio male e la mia giovinezza. Kashba, non scordare che sono uno dei tuoi. Beh. Grazie Lorenz, grazie Lorenz, molto bello. Questo era Fils della Kashba, di là di Flici, forse non è questa la pronuncia giusta, ma comunque ma ci va bene così, va bene lo stesso. È una, appunto, una poesia scritta nella prigione di Serkaji nel 57, quindi in pieno conflitto, e questo era un buon modo secondo me per concludere questa puntata. Grazie a quelli che sono riusciti a resistere fino alla fine, è stata lunghissima, stiamo ancora giocando un po', sperimentando, quindi la prossima volta faremo meglio. Prossima volta, settimana prossima, vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Tireremo altri dadi. Tireremo altri dadi. Salutiamo Cigo, l'immortale, che era qua Cigo in presenza, anche se sta sculettando, non diciamo dove, perché sennò. Guarda, veramente. Però io vedo che nella playlist è rimasto qualcosa fuori. E io azzarderei. A questo punto, salutiamoci così con i Dead Kennedys. Dai, salutiamo tutti, salutiamo, e vi invitiamo tutti a restare qua con noi, perché tra pochissimo, anzi, fra ancora meno, inizia Up Underground Push. Yes. Ciao.